ore 16.43 di giovedì 17 febbraio 2005, orario strano per registrare, in realtà non sono in movimento, sono sceso dall'ufficio in macchina per cercare un oggetto che ho perso e che non ho ritrovato. In compenso, come sempre, ho trovato altri 30 oggetti di cui non avevo più tracce, e quindi è iniziata un'esplorazione di questa Xara dei Patriarchi che, quando mi fu consegnata, aveva una sua dignità un anno fa, se non altro quella di sostituire un'auto aziendale. Era destinata comunque a essere un'auto metaforica della responsabilità di avere una famiglia, un'auto grande con seggiolino per il bambino e poi tutta una serie di tipiche facilitazioni per chi deve viaggiare in compagnia della famiglia, e che invece fatalmente ha perso tutta questa dignità in un anno di vita insieme al pendolare. L'auto ha cominciato a somigliare al disordine mentale del cervello di chi la guida. Anche la macchina sembra rispondere a degli istinti di sopravvivenza. Ci sono appunto oggetti assolutamente inspiegabili, una pila esausta che rotola qui nel cassetto centrale, un fazzoletto per il naso solitario, una cartina dell'argentario dove peraltro non riesco più ad andare da molto tempo, una serie di cartacce nelle quali avvolgevo il cornetto, perché il pendolare molto spesso mangia mentre guida per arrivare prima. C'è anche una specie di green fee che mi hanno dato in un campo pratica di golf qui vicino, mentre dall'altra parte ci sono i case, i cosiddetti gusci dei CD, alcuni regolari, altri sono dei bootleg registrati. Il cassetto della musica è veramente strapieno, credo che non vi sia neanche più aria all'interno, mentre nel retro c'è un ombrello scassato, come in ogni macchina romana che si rispetti. Ci sono anche dei ruderi, dei pezzi di accessori che venivano usati e che nessuno ha mai pensato di togliere, tra cui un parasole per il bambino con una pecora distrutta che mi guarda con un'aria triste. Ecco, poi qua dietro c'è una cartella con dentro dei biglietti da visita di un assessore di una città toscana. Risale a una vecchia riunione di lavoro. E poi c'è anche un documento che appartiene alla letteratura horror, vale a dire il modulo per le prestazioni dentistiche, che francamente è qualcosa che non leggo proprio perché potrei così colpire le coronarie di molte persone. Si parla di pratiche da carcere di Abu Ghraib. C'è anche una rivista aziendale degli anni 80 dove c'è un signore che parla con un telefonino enorme e ha davanti a sé un computer portatile che peserà almeno 20 kg. Beh, certo, rispetto alla Focus aziendale è meno esotica questa macchina, perché non avendo il difetto dell'alzacristalli che non funziona, quindi non avendo il finestrino aperto la notte non entrano tutti quei piccoli animali, quei piccoli amici che mi tenevano compagnia nella Focus e che la trasformavano in un ecosistema indipendente, in una città, in una Focusville, come viene descritta in un vecchio post. Focusville aveva addirittura dei fenomeni meteorologici, anche dei fenomeni sociali al suo interno, delle piccole rivolte, delle alleanze politiche tra le varie specie animali che l'abitavano, mentre ecco qui la Xara è una macchina chiusa rispetto all'esterno, quindi non ha questa connotazione esotica, però riflette perfettamente il becerume della persona che ci viaggia, ci sono anche degli scontrini del distributore di benzina, tutti rigorosamente oltre i 50 euro, per un totale di circa 300 euro al mese di benzina. Ci sono custodie di occhiali alle quali non corrispondono mai gli occhiali veri, all'interno ci sono sempre altri occhiali. Una totale fungibilità degli accessori, dei guanti spesso spaiati, una sciarpa. E poi c'è anche un contenitore che sta quasi per esplodere, è una cartella con tutti i documenti della macchina, ci sono le assicurazioni fino a 7 anni fa, il libretto ormai completamente illeggibile. Io credo che sarebbe molto interessante vedere in che senso si somigliano le macchine dei pendolari, perché poi magari vi saranno anche le persone ordinate in grado di tenerle meglio, ma non è il mio caso.